Eccoci, ta-da! Mini Pimer, Mini Pimer! Sì, Mini Pimer. Il ripasso delle cose che non sono andate in fondo per il 24 ore radiofonico. Sì, alcune cose sono rimaste fuori e in effetti ci siamo farvele sentire assolutamente. E la prima cosa che mandiamo, anche se l'abbiamo mandato diciamo a metà, è un contributo da Buenos Aires. Ah sì. Lo lancio subito, no? Sì. Una compagna che racconta le rivendicazioni portate in strada nella giornata dell'8 marzo e sì. Oltre. Sì. È circa un quarto d'ora e buon ascolto. Ok, allora siamo qui a Buenos Aires dove in occasione di questa giornata 8 marzo sono stati fissati due concentramenti. Uno di questi è quello diciamo istituzionale che si è in Piazza De Maggio e come sapete è la piazza famosa della Casa Rosada del Palazzo del Governo. Ed è stato convocato dal coordinamento dei trabajadores de Argentina, rappresentante di lavoratori e lavoratrici, disoccupati, organizzazioni territoriali e di sindacati, ma in generale poi a questo appello hanno assistito moltissimi gruppi sia istituzionali che non, collettivi, gruppi universitari e quant'altro. In generale è una piazza veramente partecipatissima, io sto venendo da là, insomma ho contato diverse migliaia veramente di presenze. È una piazza che è stata lanciata su varie rivendicazioni che sono un po' poi come dicevamo prima con te, un po' quelle che accomunano tutte le piazze di questa giornata in tutto il mondo. Sicuramente si sono date appuntamento tutte le organizzazioni, le realtà che lottano contro la violenza sulle donne e contro i femminicidi che sono tristemente molto attuali sia come da noi in Italia ma anche qua in Argentina e in tutto il resto dell'America Latina. Il tema della violenza sulle donne e dei femminicidi va purtroppo fa il paio molto spesso con la questione dell'aborto che è una tematica centrale di questa manifestazione, infatti poi ci vorrei tornare per approfondire un po' la questione. Campagna per l'aborto legale, libero e gratuito che sta andando avanti già da diversi anni in Argentina. E un'altra delle rivendicazioni molto forti di questa piazza è la volontà di smantellare le reti della prostituzione, dove chiaramente per prostituzione intendiamo lo sfruttamento del lavoro sessuale come tratta di persone, quindi assolutamente non come lavoro sessuale che uomini, donne, persone trans scelgono di fare in maniera autodeterminata, ma come quella vera e propria schiavitù imposta dalla connivenza fra mafiosi, politici, funzionari di Stato e quant'altro. Arrivando, scusami. Ovviamente. Sì, ti interrompo un secondo. Al riguardo, visto che parlavi delle lavoratrici e dei lavoratori sessuali, ti volevo chiedere anche se proprio ci sono degli attori, delle attrici in questo senso, quindi delle lavoratrici sessuali in particolare, che si sono fatte protagoniste di alcune rivendicazioni che oggi sono in piazza. In questo momento non ho visto ancora la loro presenza nella piazza di oggi, ma sicuramente sono molto presenti nelle varie campagne che portano avanti contro i femminicidi, sicuramente è molto forte la loro voce, proprio di poche settimane fa l'ultimo caso di una ragazza desaparecida, di una autrice del sesso desaparecida e di cui appunto non si hanno più notizie, quindi purtroppo è tristemente noto, ancora molto attuale il tema delle scomparse di queste persone che mentre da noi, parlavamo anche oggi, si parlava oggi nel corso della trasmissione con i vari interventi, si considerava un po' come molto spesso siano in Europa le migranti a fare questo lavoro, oppure anche quando si tratta di appunto di tratta, Qua fanno anche le argentine e anche le bianche a subire questo tipo di trattamento, quindi ecco, non si parla solo delle fasce sociali più deboli, ma anche dell'emarginazione sociale più generica. Un'altra delle rivendicazioni che sono forti, centrali di questa piazza è sicuramente la questione della precarizzazione del lavoro femminile e sono tante appunto i fatti che sono appunto contesti di lotta anche molto attuali in cui le donne sono protagoniste. C'era prima un gruppo di donne che molto partecipato, che riportano all'attenzione la tragedia di Onze, che sicuramente ricordate perché è successa poco fa, e questo incidente di una stazione del treno, appunto quella di Onze, in cui sono morte 51 persone, di cui 29 donne, e appunto le persone chiedono giustizia per queste morti, perché è assolutamente accertato che sono morti prodotte appunto da l'incuria, dalla corruzione, dalla connivenza del governo con l'impresa che gestisce le ferrovie che sono state privatizzate. Un'altra lotta che è molto forte, presente anche nella piazza di oggi, è la resistenza, diciamo, a quello che è il progetto delle multinazionali che vorrebbero espropriare terreni e sfruttare il territorio per costruire appunto le megamineria, che sono appunto grandi miniere a cielo aperto che comporterebbero appunto la depredazione delle risorse naturali come il rame, come l'oro, che sono presenti in Argentina, che appunto mi fanno un po' pensare, ecco, in questo momento alla nostra lotta no TAV, per il tipo di determinazione a cui stiamo assistendo proprio rispetto alla difesa degli uomini e delle donne del proprio territorio, anche per la forte repressione che stanno subendo queste persone che partecipano alla lotta. A proposito di repressione, ecco, un'altra delle tematiche è la legge antiterrorista che è stata approvata a dicembre del 2010 dal Parlamento, e che appunto prevede la criminalizzazione dei movimenti sociali, appunto con le capi di imputazione di associazione illecita a fini terroristici e finanziamento del terrorismo, qualcosa che può suonare anche abbastanza familiare per quanto riguarda la nostra realtà. Quindi ecco, questa piazza si sposterà a breve a Plaza Congresso, che è un'altra piazza centrale, diciamo, della città. È la piazza del Parlamento, e questo proprio perché si vuole portare all'attenzione del Parlamento di nuovo la proposta di legge sull'aborto, che è il frutto appunto di questa campagna, come ti dicevo, che va avanti da diversi anni e che vede impegnate appunto donne, attiviste e vari gruppi e associazioni. Già dal 2007, quando è stata portata per la prima volta in Parlamento questa proposta di legge, ma è stata subito, diciamo, cassata. Lo slogan principale di questa campagna è educazione sessuale per decidere, anticoncezionali per non abortire e aborto legale per non morire. Forse al riguardo magari puoi raccontarci anche un pochino delle iniziative che comunque sono state fatte in questi anni, in attesa che ci sia una legge che dia diritto alle donne di scegliere e quindi poter decidere sul proprio corpo. Sì, esatto. Diciamo che infatti a sopperire quelle che sono le mancanze della legge, cioè poi per fortuna tutta una rete di collettivi e di realtà che si muovono per appunto dare alle donne strumenti di conoscenza e di pratiche poi per superare questo tipo di difficoltà. Esiste un gruppo di donne femministe lesbiche che hanno dato vita ormai da 3 anni a questa sorta di telefono o amico, un telefono che fornisce informazioni sui vari metodi abortivi che le possono adottare senza rivolgersi appunto a delle cliniche private, che sono poi

si parlerà della tematica della campagna per l'aborto libero, legale e gratuito. E anche, appunto, io stavo dando un po' un'occhiata al programma che ho qui sotto, e anche della violenza all'interno di coppie lesbiche, che appunto non è assolutamente una tematica nuova e che non deve sfuggirci anche quando parliamo di violenza machista in occasione di questa giornata, come in tutto il resto dell'anno. Del resto non dobbiamo dimenticarci che esiste anche questo tipo di violenza. Se tu non hai domande, io vi saluterei qua. Sì, ne avrei moltissime, quindi a questo punto sei incastrata per un prossimo collegamento. Volentierissimo, guarda, volentierissimo, io saluto tutte, un abbraccio, e l'appello è a continuare la lotta sempre in qualsiasi parte del mondo ci troviamo. Assolutamente, ciao, un abbraccio forte anche a tutti. E ecco, questa appunto era una corrispondenza che è stata registrata qui in questi studi l'8 marzo con una compagna che si trova a Cordoba in Argentina, e adesso facciamo un piccolo stacco musicale e poi continuiamo con altri spezzoni audio. E Sofì, che abbiamo anche sentito giovedì, che ha rifatto un cover della Mom Catch Catch, l'ha chiamato Mom Coach Coach. C'est moi la même cache-cache, voyez les gros disques au costaud. Avec ça j'ai l'air vache, une paire de pétards au corps. J'ai une balle de fer, la gueule en acier, les dents noires et les deux pieds tatoués. Je fais le pied au mur comme un échelon, le grand piquage, j'ai craché costard. Je dois du bruit qui tâche. C'est moi la même cache-cache, je dois du bruit qui tâche. C'est moi la même cache-cache. Un jour dans une bagarre, avec des affranchis d'un quartier de l'arsenal, j'ai cogné sa fille de garant. L'un dans le trait à l'hôpital, les flics sont arrivés naturellement. Bien après tout, c'est plus prudent. Comme on m'a dit le commissaire requin, je lui dis que toi, on peut pas savoir. C'est moi la même catch-catch, croyez les gros disques pour ton costaud. Avec ça j'ai l'air vache, et une paire de pecteurs au corps. J'ai une peine de fer, la gueule en acier, les dents en or et les petits paquets. Je fais le pied au mur comme un échalas, le grand écart, j'ai craché au costaud. Je bats du bruit qui tâche, je bats du bruit qui tâche, je bats du bruit qui tâche. C'est moi la même catch-catch, je bats du bruit qui tâche, c'est moi la même catch-catch. Ecco, questo era per fare un salto in Francia. Infatti anche giovedì abbiamo sentito Carole, che tornava dalla manifestazione di notte, che è stata ben partecipata. Diceva che hanno 200, che hanno fatto un sacco di casino, percussione. C'è infatti mi sono dimenticato il nome di questa band che suona percussione tutti insieme. E non abbiamo in questo momento là avuto l'opportunità di parlare un po' dell'appello e di chi organizzava questa manifestazione di notte. Dunque, anche se ne abbiamo già parlato a questi microfoni, si tratta dell'Assemblea di Femministe e Lesbiche, che si riunisce un lunedì sì, un no, da settembre 2011. In modo separatista di donne e di lesbiche. Loro hanno iniziato a riunirsi di seguito alla rimessa in libertà di Dominique Strauss-Kahn dalla giustizia americana. Si sono mobilizzate contro l'impunità delle violenze maschili. Hanno fatto azioni per fare luce sulla responsabilità dei politici e dei media, e hanno denunciato la legge del silenzio. Hanno manifestato il 5 novembre per rompere il silenzio e contro tutte le violenze maschili perpetrate sulle donne. Hanno denunciato l'ipocrisia della coppia e della famiglia a Natale e a San Valentino. Agiamo in tutte le direzioni per liberarci delle nostre oppressioni, violenze subite, molestie quotidiane. Sviluppiamo delle pratiche di solidarietà tra noi, denunciamo cosa che la società rifiuta di sentire, l'impunità massiccia delle violenze maschili. Ci rivoltiamo pubblicamente e agiamo per dare esperienza alle donne in lotta a Parigi, in Francia, in Europa e nel mondo. E dunque di seguito alla manifestazione più istituzionale che si è svolta anche un po' prima il 8 marzo, che a Mista, infatti, loro hanno organizzato questa marcia di notte che ha durato, come sempre, le femministe e le lesbiche di questo, diciamo, questo ambito fanno delle marce molto lunghe, attraversano Parigi per 2 ore e mezza, anzi 3, e volevamo anche leggere l'appello di questa manifestazione che era perché il contenuto politico è abbastanza interessante. Volevo, prima di sentire Olga che lo legge, fare 2 piccole cose. La prima è che 2 punti sono riferiti a 2 faccende che sono successe in Francia pochi giorni prima dell'8 marzo. 2 punti dell'appello. Due punti dell'appello. Infatti, il 16 febbraio, una donna di 38 anni, madre di 6 bambini, si è dato fuoco nel palazzo del comune di Saint-Denis, la periferia di Parigi. Lei da anni vive da sola con i suoi figli e dalla morte del suo compagno. Lei da anni chiede una casa, è stata ospitata da servizi sociali per l'inverno e temeva di ritrovarsi in strada alla fine della treva invernale. Questa situazione difficile era conosciuta dai servizi sociali e purtroppo niente è stato fatto. Lei è comunque morta di averci dato fuoco. Il secondo punto è il fatto che a Nizza, che era dunque questo, vabbè, il mese prossimo, anche prima, anche a febbraio, una donna prostituta che lavorava a Nizza si è fatto fermare dai poliziotti. Quelli hanno chiesto di salire nel furgone e l'hanno portato in un posto un po' più discreto. Gli hanno chiesto di essere gentili con loro se voleva non andare al posto. E lei ha denunciato la faccenda e sono stati sospesi dal lavoro. E anche se hanno rifiutato i fatti all'inizio, poi hanno riconosciuto i fatti. Sono stati messi in esame, ma per adesso non si sa ancora niente. E dunque passiamo alla lettura dell'appello dell'Assemblea di femministe e di lesbiche di Parigi per la manifestazione scorsa dell'8 marzo. Marcia di notte separatista, 8 marzo 2012, appuntamento a Place de la Bastille alle 20:30. La giornata internazionale delle lotte delle donne, che prende radice all'inizio del XX secolo nelle manifestazioni e scioperi delle donne operaie e le rivendicazioni femministe per l'uguaglianza, è una volta ancora strumentalizzata dalla classe politica mentre i negozi ci distribuiscono delle rose. Nel loro caso, da noi sono appunto mimose. Tra strumentalizzazione politica e buona coscienza patriarcale, l'8 marzo sarebbe la nostra giornata, ma tutti i giorni siamo molestate da un padrone, rimorchiate da un vicino, insultate da uno sconosciuto, stuprate da uno zio o congiunto, assassinate da un marito. Tutti i giorni una donna nera, lavoratrice delle pulizie, è stuprata da uno che può accedere alla presidenza, che fa ancora il fico sulla scena internazionale. Tutti i giorni una donna senza casa, disperata, si dà il fuoco nella periferia di Parigi. Tutti i giorni una donna prostituta è stuprata da 3 poliziotti in un camion della polizia. I poliziotti assolvono assolti da una giustizia di classe e patriarcale. Tutti i giorni ci danno delle bugiarde quando denunciamo queste aggressioni. Tutti i giorni subiamo la precarietà, la crisi sociale, i part-time imposti, i problemi di alloggio, le doppie giornate di lavoro, la dipendenza economica e, dal congiunto, la prostituzione. Tutti i giorni i centri di aborto chiudono, lo Stato affida le linee d'ascolto per le donne vittime di violenza a delle imprese private. Tutti i giorni siamo chiuse dentro o fuori. Tutti i giorni subiamo il patriarcato e l'eterosessismo. In tutti gli ambiti, tutte le classi, tutte le culture, tutte le età, nella famiglia, nella coppia, nei nostri gruppi di amiche e amici, nei gruppi militanti. Per strada, nella metro, al lavoro, a casa, nelle feste, tutti i giorni, tutte le notti, dappertutto. La solidarietà maschile sigilla il sentimento di impunità degli aggressori e dei loro complici. La loro propaganda di odio sessista ci condanna tutte a rimanere zitte mentre la giustizia conferma i discorsi più maschilisti. Oggi ci organizziamo come classe di donne e lesbiche, impariamo a difenderci verbalmente e fisicamente, creiamo rapporti di sorellanza e di aiuto reciproco, costruiamo la nostra autonomia. Non abbiamo più né senso di colpa, né dubbi, né vergogna. Reagiamo e si vedrà chi l'ha cercato. Basta con l'impunità. Reagiamo, attacchiamo, non saremo zitte. L'8 marzo 2012, donne e lesbiche, riprendiamo la notte e la strada. Marcia di notte, nello spazio pubblico, la notte vuol fare di noi le vittime. Dovremmo nasconderci, dovremmo essere accompagnate, ma non abbiamo paura. Dagli anni 70, donne, lesbiche, femministe riprendono la strada, lo spazio pubblico, con delle manifestazioni di notte. Questo era a firma dell'Assemblea Generale di Femministe e di Lesbiche contro l'impunità della violenza maschile di Parigi. Voice of life went, it went bang bang in my head, and now it's just a little exciting, like more than perfect timing. It goes bang bang in my head, and in this moment I'm just a little weak, and in this moment moment I could see this day leave me, and in this moment I'm wandering effortlessly, and in this moment I have questions burning, they go bang bang in my head. Martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ah!

skinned. Come on, Dahlia. Like snow.